voi critici, i periferici, al centro di uno scandalo. Noi siamo i killer del pensiero unico, gli zingari del logico. In testa un sogno e sotto ai piedi fascine di legno. Hai polsi corte, in testa un sogno e sotto ai piedi fascine di legno. Hai polsi corte, in testa un sogno e sotto ai piedi fascine. Siamo i critici, i periferici, al centro di uno scandalo. Noi siamo i killer del pensiero unico, gli zingari del logico.